Allora paghi tu o faccio l'addebito sul conto di tuo papà? La mia banca è indifferente. Oggi mi sento gonfia. Hai provato a fare delle scoregge nel borotalco? Sì, ma sono gonfia. Hai provato i rapporti anali? No, perché sono gonfia. No, perché dice che lo sperma ammorbidisce? No, perché mi sento gonfia. No, ma fa bene alla pelle? Sì, ma mi sento gonfia. No, ma insomma, volevo dire, hai provato a farti dare... No, perché mi sento gonfia. Hai provato con un bisturi? Già finito? Bene, abbiamo caricato la lavastoviglie, lì che va. E ieri invece ha inaugurato That's It sull'ultima generazione di artisti in Italia e a 1,80 m dal confine. Mi sembra che Lorenzo Balbi sia più alto di 1,80 m. Ma forse mi sbaglio, e credo che la mostra che ha inaugurato al Mambo ieri sia una mostra fantastica. In realtà adesso l'ho vista solo un po' velocemente prima dell'inaugurazione e poi non benissimo durante l'inaugurazione. Mi riprometto di andarla a vedere di nuovo proprio per guardare con più calma le opere. Devo dire che due opere in assoluto mi hanno, no, in realtà tre opere in assoluto mi hanno colpito molto, e fra un po' vi racconterò quali. Nel frattempo, ieri, prima dell'inaugurazione, abbiamo sentito Lorenzo, il direttore nonché curatore della mostra, che appunto ci racconta che cos'è questa mostra. Sono in una sorta di super anteprima, cioè neanche tanto, perché ieri c'è stata la conferenza stampa ma io non c'ero, per cui l'ho mancata, ma con Lorenzo Balbi per la mostra That's It, che inaugura stasera e che però poi noi l'ascoltiamo domani. Cosa mi racconti? In brevissimamente, che cosa abbiamo mancato? Beh, intanto ti racconto che sono emozionato, perché è veramente il mio debutto alla direzione artistica del Mambo, e quindi oggi sono un po' così, un po' in ansia. Però sono anche molto contento, perché abbiamo passato due settimane in cui il Mambo ha completamente cambiato se stesso. Quello che tutti avvertiranno è uno spazio completamente diverso, e soprattutto il museo è diventato un luogo di una comunità, perché i 56 artisti in mostra sono tutti venuti a Bologna, si sono prestati, si sono divertiti abbiamo a giudicare dalle opere, occupato un ostello. Ma c'è anche una novità tardi. Questa non è mai stata trasparente, vero? Assolutamente, sentite passare anche delle esatto. cose sono... mi scuso per è Anna Rossi che fa del casino. Anna Rossi che va su giù dalle porte. Però sì, dal punto di vista della gestione dello spazio sono stati fatti dei gesti, se vogliamo, anche non così eclatanti, però dal punto di vista concettuale, che hanno soverchiato completamente la natura del museo. Una apertura, diciamo. Esatto, il museo, quello che questa mostra vuole dimostrare è che il museo è uno spazio organico, non ci sono distinzioni tra collezione permanente, mostre temporanee, dentro, fuori, didattica, reception. Il museo è un luogo organico in cui gli artisti con le loro opere possono interagire, possono agire su ognuno di questi spazi. Uno dei gesti più emblematici è l'apertura della grande vetrata che dà sui portici di via Don Minzoni, portici che sono l'emblema di Bologna, speriamo presto diventino patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. E noi abbiamo un portico, abbiamo la fortuna di affacciarci come museo su un portico, e perché non fornire alle centinaia, alle migliaia di persone che passano sotto questo portico un'anteprima, dimostrare che dentro il museo c'è qualcosa di vivo e non siamo un bunker chiuso in se stesso. E questo è un po' lo stimolo. Sono state aperte le finestre, sono state installate le finestre al piano superiore, che mettono in dialogo il moderno, la collezione permanente e le mostre temporanee, proprio in quest'ottica anche di contaminazione, di osmosi dello spazio, e anche offrendo un nuovo punto di vista sulla sala delle ciminiere. La sala delle ciminiere, che finalmente è veramente una sala delle ciminiere, tutto quello che era stato frapposto, mascherato, aggiunto negli anni scorsi è stato tolto e le ciminiere danno sfoggio di sé e danno un'identità precisa a questo spazio. Fantastico. Numero di artisti, è ben detto? Numero di artisti 56, 56 tra artisti e collettivi, quindi tra... fanno più di 65 persone. Tra il 1980 dal 1980 in poi. Ah, 80. Quindi la generazione dei cosiddetti millennials, di cui anch'io faccio parte. E quindi l'artista più giovane è del 1993, quindi copriamo un arco di oltre 13 anni che so non essere del tutto una generazione, però che può offrire una panoramica interessante su quelli che sono i temi e i risvolti di questi artisti, e che spero dia anche modo a loro di far vedere chi sono, cosa fanno e di diventare protagonisti dei prossimi anni. A un primo sguardo mi sembra una mostra più politica di quanto mi sarei aspettato, mi sbaglio? Ma bisognerebbe parlare un po' anche del concetto di politica. Tantissime sicuramente opere. Essendo opere per la stragrande maggioranza nuove, sono dettate dai tempi, e quindi chiaramente il tema, l'urgenza politica, l'urgenza di un'autorappresentazione, di un'autodefinizione del ruolo dell'artista e del ruolo dell'arte in questa società è un tema molto presente nelle opere degli artisti. Quindi sì, se vogliamo, sì, ci sono molte opere politiche in questo senso. Questo fantastico Polinieri, devo dire che mi è piaciuto moltissimo. Questa è un'opera che Giulio Del Ve ha concepito espressamente per Bologna, espressamente per questa mostra, di nuovo una nuova produzione, ed è una sorta di manifestazione di fronte a questa macchina blob, che mettendo insieme le portiere di una macchina di polizia, una dei carabinieri, diventa una ipotetica macchina del potere contro tutti su cui si rivolgono dei polinieri, e queste teste dei manifestanti, che sono poi anche ritratti, sono realizzate sulla base di questi oggetti, di questi materiali immediatamente riconducibili a manifestazioni, quindi dai cubetti di porfido ai vetri rotti delle macchine a spranghe di ferro. Bene, Lorenzo, io ti ringrazio moltissimo e invito tutti a venire a vedere questa mostra, perché effettivamente è un ottimo ritratto di quello che è l'arte dei millennials di questo periodo, dell'ultimo decennio. Grazie a te, vi aspetto al Mambo. Grazie. Arte contemporanea. Eu sou o quadro, sou o pintor. Eu sou a tela, também a cor. Eu sou o céu, eu sou a terra, eu sou a flor e o seu gramado. Eu sou a chuva e o sol que esplende. Pintor, eu sou a imaginação viva em você, uma partícula subatômica menor que é, não é. Nós somos um e energia, um holograma, uma emoção. Junto nesse núcleo é o pensamento, não tem limite. Somos tudo aquilo que é possível. Eu sou o quadro e o pintor. Eu sou a tela, também a cor. Eu sou o quadro e o pintor. Somos a tela, somos as cores. Thank you. Questa era A tela di Rosalia de Sousa, che come abbiamo detto qualche tempo fa in qualche puntata precedente è uscito da poco il suo nuovo album che si chiama Tempo, e per cui andate a vedere il Coxo, se non sbaglio, 223, dove appunto racconto tutto su Rosalia. Detto questo, A tela, ma non c'era al Mambo, non ci sono tantissime tele, ovvero c'è un po' di pittura ma non tantissima, francamente me ne aspettavo di più, e francamente devo dire che mi aspettavo che Lorenzo avrebbe fatto un lavoro un po' più alla moda, un po' più decorativo, invece ha scelto una serie di artisti che non mi sono dispiaciuti per niente. Alcuni fanno un lavoro che magari sembra un po' già visto, sembra un po' scontato, ma altri invece, vabbè, alcuni sono artisti piuttosto affermati, ma altri invece sono una gradevolissima sorpresa, tra cui Lia Cecchin, che conosco di vista, forse non ci siamo in realtà mai parlati, ma apprezzo il suo lavoro su Instagram e avevo visto appunto un po' di cose che fa, e lei ha fatto questo Dada Poem, che è un'installazione costituita da elementi di abbigliamento con appunto poesie Dada scritte sopra. Molto divertente, molto in realtà mi ha toccato abbastanza. Sono Margherita Pepe e sto ascoltando Coxo Spaziale. Dicevo, uno dei lavori che mi ha colpito di più è quello di Federico Antonini, che proprio all'ingresso del Mambo, cioè all'ingresso della mostra, all'ingresso della sala grande dell'ex Forno del Pane, ha mostrato questo acquario in cui dentro c'è questa figura così di terracotta che assomiglia praticamente a una testa coperta da balaclava, in realtà è solo una sorta di balaclava di terracotta con questi piccoli piranha che ci girano attorno, e Lorenzo appunto mi raccontava che sono dei pesci molto sensibili, molto particolari, ma che cresceranno di un terzo, cioè diventeranno tre volte più grandi nei tre mesi della mostra, ed effettivamente è un po' un simbolo sia di quello che è il mondo dell'arte italiano, con questi pesci piranha che sono sì sensibili ma anche stronzi come piranha, che ti mangerebbero senza pensarci due volte, ma nello stesso tempo con questa poesia e con questa sensibilità. Subito dentro la mostra l'installazione è piuttosto caotica, ho sentito gente lamentarsi di questa cosa, a me in realtà questo caos è piaciuto moltissimo, e a parte il caldo dell'inaugurazione devo dire che me la sono goduta ampiamente, e così come mi sta piacendo il catalogo, malgrado alle volte magari noi addetti ai lavori abbiamo bisogno di un po' più di chiarezza, devo dire che il catalogo è un oggetto di grafica veramente notevole, in cui Lorenzo ha chiesto a ognuno dei 55 artisti di preparare, credo molto liberamente, una pagina per sé, una quadrupla pagina, una doppia pagina fronte retro, che poi è stata messa tutta insieme a questo piccolo pamphlet con un sacco di testi di curatori importanti che dicono cose molto interessanti. Adesso ho sfogliato un po' velocissimamente la faccenda. Naturalmente non è facile raccontare una mostra come questa, che è una sorta di riflesso di quello che è l'arte italiana dei millennials, cioè di quella generazione che va dai 20 ai 30 più o meno, insomma nati dagli anni 90 agli anni 80, di questo momento, che appunto ci incontriamo un po' di tutto. Sicuramente lavori importanti sono appunto, come dicevo prima, questo dell'ingresso, quello di mi è piaciuto moltissimo anche il lavoro di Irene Fenara, che racconta appunto quanto siamo adesso controllati, per cui lei va online e trova tutte queste, adesso in realtà sto andando a braccio perché non me l'ha raccontato, ma lei va online e cerca tutte queste telecamere di sorveglianza e controlla quello che succede all'interno di queste telecamere di sorveglianza. Non solo, a un certo punto decide di intervenire lei stessa e va nei posti dove ci sono queste telecamere di sorveglianza per farsi un autoritratto, per cui la vediamo in varie in varie stanze in giro per il mondo la sua figura davanti appunto a queste telecamere di sorveglianza, e lì ci racconta un mondo parallelo, no? che ci sta controllando, ma non sappiamo chi sia questo grande fratello che ci sta controllando, ma nello stesso tempo siamo noi stessi che controlliamo, abbiamo bisogno di una prova visiva di quello che è il nostro essere, per cui fino a che, se qualcuno ti racconta una notizia, fino a che, cioè, tu come fai per capire che la notizia è vera? Vai su internet e cerchi l'immagine, se non c'è l'immagine non ti fidi. Che è molto diverso rispetto a quello che poteva essere l'informazione 20 o 30 anni fa. Un altro lavoro che mi è piaciuto molto è questa videoinstallazione di Margherita Moscardini, che è andata in tutte le varie torri di difesa della prima e seconda guerra mondiale, presumo soprattutto seconda, soprattutto immagino nella Francia del Nord, in Irlanda, eccetera, e le ha filmate e le ha disposte in giro per lo spazio, e hanno questa, a parte questa bellezza architettonica, ma anche questa sensibilità un po' particolare, cioè hanno questa possenza architettonica che però è anche pratica, per cui sono degli oggetti, diciamo, di design un po' goffi, un po' pesanti, però con tutta lo spessore storico di quello che rappresentano, no? Per cui i nazisti che hanno paura dell'invasione degli americani, cioè dell'invasione, i nazisti invasori che hanno paura della difesa degli americani, eccetera. Devo dire che adesso anche quello è un lavoro che non mi dispiacerebbe andarmi a rivedere come si deve. Ho già parlato fin troppo, torniamo a un po' di musica. Apro gli occhi la mattina e rivedo la sera prima, il locale che chiude quando tu ancora non arrivi. La macchina non funziona, è agosto e la spiaggia è lontana, e allora faccio un giro in montagnola. Anche oggi è già domani, è già deciso che non rimani, lascia a casa le tue chiavi, chissà che piani hai. Se penso agli addii, non esistono più gli addi, siamo sempre collegati, anche quando non lo sai. E vorrei averlo perso, quell'attimo in più, per lasciarti andare meglio. Ma pensa a te che bel risveglio, senza un'anima intorno. Amore mio, oggi sono solo io, voglio stare bene, metto gli occhiali da sole. Ho capito ora quanto valeva quella fuga da scuola, far l'amore in cantina, un viaggio senza meta, camminare alla cieca, la notte passata a fare mattina. In un treno per Grosseto forse ti ritrovo, in un sorriso a caso, un dito sul libro o in un posto vuoto. Se penso agli addii, non esistono più gli addii, siamo sempre collegati, anche quando non lo sai. E vorrei averlo perso, quell'attimo in più, per lasciarti andare meglio. Ma pensa a te che bel risveglio, senza un'anima intorno. Amore mio, oggi sono solo io, e voglio stare bene, metto gli occhiali da sole. Magari è un bel posto, se questo tempo perso ce lo riprenderemo indietro un bel giorno. Ma pensa a te che bel risveglio, senza un'anima intorno. Amore mio, oggi sono solo io e voglio stare bene. Metto gli occhiali da sole. Oggi sono solo io e voglio stare bene, metto gli occhiali da sole. Questo era Fare mattina dello Stato Sociale e mi è venuto in mente di suonare sto pezzo proprio perché il cantante di questo pezzo, Checco se non sbaglio, lo abbiamo intravisto all'inaugurazione di ieri, e siccome mia figlia è innamorata dello Stato Sociale, anzi la saluto, ciao Yumi, e si è voluta fare il selfie con lui, eccetera. Però mi fa piacere vedere appunto artisti musicali che si mischiano con quelli visivi. Stavo continuando a sfogliare il nostro catalogo e un altro lavoro che mi era piaciuto non lo trovo più. Niente, ah no, volevo anche dirvi che ho approfittato per andare a vedere la mostra nei piani di sopra, quella su Rosanna Chiesi, continuo a chiamarla Rossana, non so perché, che effettivamente ha dei Petty Fluxus, un Joseph Beuys bellissimo, insomma ci sono opere veramente notevoli, tra cui questa serigrafia di Nietzsche, veramente fantastica, una serigrafia su carta appiccicata su tela, veramente particolare, oltre a una serie di Polaroid di merda dedicate proprio a lei da parte di Roth Dieter, credo che si pronunci così. Comunque, se andate a vedere That's It e non potete mancare, andate a vedere anche la mostra di su Rosanna Chiesi, su questa gallerista scomparsa qualche anno fa, perché veramente merita. Bene, allora lasciamo il mambo dunque e andiamo invece a parlare di letteratura. È uscito un nuovo libro, ma ce lo facciamo descrivere direttamente dall'autore. È da un bel po' che avevo in mente di scriverlo, questo libro. Era diventata una specie di scommessa con il passato, con quel decennio così unico e magico che rappresenta ormai il mio tempo zero. Il mio modello di riferimento per guardare sia a quello che l'ha preceduto che a quello che l'ha seguito. Su fino all'oggi e al futuro. Così, pian piano negli anni, finalmente ho trovato il coraggio di raccontarlo, di raccontarmi, di spiegare una volta buona perché è stato tutto così importante per me. Perché lo era allora e ancor di più perché lo diventa adesso. Nell'autunno del 1968, quando tutto ebbe inizio, io avevo 5 anni ed entravo in prima linea, mentre altrove in Europa i carri armati sovietici entravano a Praga. E a Natale del 1980, viceversa, sembrava ormai tutto compiuto, con l'assassinio di John Lennon a New York, certo, ma anche e soprattutto dal mio personalissimo locale punto di vista, con la recente tragedia del terremoto della Virginia. E nel mezzo tutta la mia piccola storia di bambino prima e di adolescente poi, vissuta e incrociata all'ombra dei flagori e clamori dei grandi eventi che sconvolgevano il mondo e le nostre piccole vite. Lo sbarco sulla Luna, la guerra fredda, il conflitto israelo-palestinese, il Watergate, il Vietnam e qui da noi la tragedia degli anni di piombo, le Brigate Rosse, la morte di Aldo Moro. Ma contemporaneamente anche Woodstock, i figli dei fiori, canzonissima, le mode bizzarre e coloratissime, la rivoluzione sessuale, la ufomania dilagante, i mondiali di calcio, il punk, la disco dance, ecco. Tutto questo insieme è stato e io. Da da vecchio incattivito che dico di essere, ma forse soltanto perché voglio esorcizzare il pericolo di diventarlo sul serio. All I wanted to be was a beautiful diver. All I wanted to be was a beautiful diver. Bound to believe there's nothing like being seen in revealing swimming trunks. Volevo essere un tuffatore con l'altezza sotto il naso e mi gonfio del costume. Volevo essere un tuffatore che si aggiusta, si prepara di bellezza non comune. Voglio essere un tuffatore per rinascere ogni volta dall'acqua all'aria. Voglio essere un tuffatore per rinascere ogni volta dall'acqua all'aria. Voglio essere un tuffatore per rinascere ogni volta dall'acqua all'aria. Io voglio essere un tuffatore per rinascere ogni volta dall'acqua all'aria. Eh sì, perché la posta in gioco sembra essere davvero alta. Quei sogni, l'immaginazione al potere, contro in qualche modo gli stessi sogni e la stessa voglia di cambiare il mondo a 50 anni di distanza, con la piccola aggravante che il mondo nel frattempo è andato, ahimè, davvero un po' troppo avanti, e la tentazione di mandare tutto al diavolo, sacrificarlo sull'altare del pessimismo imperante, suffragato per giunta dalla storia, è oggi forte più che mai. Ma noi eravamo quelli della pace e dell'amore universale, delle vibrazioni positive, dell'io sono mia, degli elogi della follia, delle riserve indiane in città, e mica possiamo perderci in un bicchiere d'acqua adesso, quando anche l'acqua non fosse più quella pura e fresca di allora. A maggior ragione, anzi, per quello. Lo so, potreste dirmi che tutto ci sembrava più bello soltanto perché eravamo giovani. E in un certo qual modo potrei darvi anche ragione. Perché indubbiamente fino anche quello che allora ti faceva tanto incazzare, adesso invece lo rimpiangi. Certo, allora ci pensavi poco. Comunque mai abbastanza, e adesso invece ci pensi troppo, fino ad arrovellartici. Ma non è solo questo, credetemi. Ed è a questo punto allora che la domanda si pone prepotentemente: ma saranno poi stati per davvero meglio di adesso, questi anni 70 dei quali tanto ci piace riempirci la bocca, soprattutto quelli della mia età, E la sapete una cosa? Che non credo che ve lo dirò, sarà meglio allora o meglio oggi. Essenzialmente perché sono un vecchio cattivo, e questo lo sapete già. Ma anche e soprattutto perché penso che dovreste essere voi a deciderlo ora. Però, una spia, un indizio, un consiglio, un aiutino, ve lo posso sempre dare. E allora vi dico che tutto questo non sarebbe mai successo negli anni 70. Certo che no. O forse invece sì. Questo era Carlo Criscitelli nelle sue parole sue, per cui anzi lo ringraziamo moltissimo per averci raccontato l'origine di questo libro 70 Revisited, che è appunto appena uscito per Terebinto Edizioni, e troverete tutto il link e tutto quanto su www.coxospaziale.blogspot.com, e naturalmente come al solito ringraziamo la nostra Francesca che ci tampina con il suo fantastico ufficio stampa. Bene, continuiamo con un po' di musica e poi andiamo a vedere se ci sono menzioni. was a big mess, big mess. He was really mixed up. In realtà dimensioni non ce ne sono, nel senso che sicuramente ci sono un sacco di cose da fare a Bologna, ma per quel che riguarda l'arte contemporanea hanno inaugurato tutti la settimana scorsa, e anzi mi dispiace, sono un po' dispiaciuto che anche questo weekend non riuscirò ad andare a vedere tutte le mostre che hanno aperto in tutte le gallerie con gli studenti dell'Accademia di Belle Arti, ma ahimè devo andare fuori città. Dicevo, invece lunedì scorso c'è stata la conferenza stampa di un progetto di ricollocazione dell'opera di Giuseppe Romagnoli, L'amore patrio e il valore militare, che appunto verrà ricollocata nella sua sede originaria sulla facciata di Palazzo da Curzio in Piazza Maggiore. Il progetto, fortemente voluto e promosso dall'imprenditore bolognese Francesco Amante, prevede il restauro e la ricollocazione dell'opera che nel 1909 fu posizionata all'ingresso principale di Palazzo da Curzio e che fu rimossa parzialmente distrutta nel 1943 per ordine della Repubblica Sociale Italiana, con l'intento di cancellare ogni ricordo della casa regnante. Dice il comunicato stampa, dopo ben 75 anni, grazie al progetto di Francesco Amante, le due magnifiche statue Liberty dello scultore Giuseppe Romagnoli, assieme alla lapide dedicata a Re Umberto I, torneranno ad affiancare il lato destro della porta d'ingresso di Palazzo da Curzio, e questo, se non sbaglio, dovrebbe succedere a ottobre o a novembre, adesso me l'ero segnato, non mi ricordo, comunque dovrebbe succedere a ottobre o novembre. E anzi ringrazio Norma che mi ha spedito il pacchetto stampa di questa cosa, vi farò vedere l'immagine, ma ricordami Norma, se mi ascolti, di invitarmi alla cerimonia di inaugurazione, perché questa cosa a me interessa molto l'idea della storicità di alcune opere d'arte che vanno e vengono di moda, no? Cioè l'arte, malgrado anche l'arte storica, l'arte passata, malgrado abbia un suo valore che ormai è stabilito dalla storia, però può diventare importante o meno importante a seconda del periodo storico, ovvero, cioè, in questo momento, che ne so, Van Gogh sfodera milioni e milioni di visitatori in tutto il mondo, ma non è detto che fra 100 anni Van Gogh sia considerato altrettanto interessante o altrettanto importante quanto lo è ora. Un po' l'avevamo visto anche quando c'era stata la mostra di Vivian Maier, questa idea, no? Che comunque da un momento all'altro può succedere che un artista che magari per anni è stato ignorato possa esplodere di importanza, oppure può succedere, appunto, come è successo per esempio con alcuni pittori molto, molto in voga durante gli anni del ventennio, che grazie, cioè per via della loro tra virgolette affiliazione politica magari, ora o comunque nel dopoguerra sono stati, non dico sviliti, ma comunque sono stati ampiamente ignorati. E così. Just getting better, take one. Sing it, you know, I got it admitting and getting all that properly. If you can think, you know. Yeah. I'll just say 1, 2, because it can always be cut out. spaziale. Per cui, seguendo questo discorso della moda e del fatto che arte può, l'arte storica può entrare o uscire dall'interesse del pubblico generico, mi chiedo se anche i Beatles potranno mai passare di moda. Potranno mai passare di moda i Beatles? Chi lo sa? Dunque, Coxo spaziale continua così, Fedra non ce l'abbiamo, le menzioni praticamente sono finite, per cui faccio così. E cos'altro si può dire? Niente, che la nostra fantastica programmazione estiva continua, e anzi, benvenuti in estate, è cominciata l'estate finalmente, non che non fosse abbastanza caldo anche prima. E ascoltiamoci l'altro giorno qualcuno della redazione si è lamentato della qualità della musica che noi programmisti di Radio Città Fujiko facciamo, e adesso non mi ricordo se qualcuno aveva messo su un pezzo di Albano o qualcosa del genere. Io non farò altrettanto, anche se magari in passato l'ho fatto, ma così mettiamo su un bel pezzo punk, ristabiliamo un po' di equilibrio rispetto alle, stavo per dire una parolaccia, alle simpatiche canzoni che alle volte invece magari metto così per dileggiarvi. Fottuta mafiocrazia, la gente libera solo di essere d'accordo. come chi voleva capire ha capito, e anche chi ha capito spesso ha preferito può abbassare lo sguardo. Questi erano gli Into the Baobab e con Sottoculture Unite. Questo è un EP chiamato Verdi Acidi Pensieri del 2012, giusto per controbilanciare appunto la piccola sviolinata che abbiamo fatto all'istituzione Bologna Musei e dunque secondariamente di seconda mano al comune di Bologna, che invece bisogna sempre, mi raccomando, mantenere così ad una certa distanza, soprattutto politica, soprattutto quando c'ha a che fare, che ne so, con la distruzione di un bosco tipo il Prato di Capraia o cose del genere. Molto bene, questa è sempre Coxo Spaziale, noi siamo a Radio Città Fujiko 103.1, io non ho nient'altro da dire, per cui fra un po' chiudo la trasmissione. No, scherzo, olè. Così mi è partito un attimo un trip di punk anni 80, vecchio stile. Questi erano Siamo Noi dei Dioxina invece, in un questo adesso Se non erro, questo arriva da un EP che si chiamava Skinny Punk, dove appunto negli anni 80 c'era un po' questa distinzione tra quelli che erano skinheads e quelli che invece avevano la cresta. In quasi tutta Italia tra di loro si menavano, a Bologna invece facevano un EP insieme appunto per contrastare il nemico. Ma chissà chi era il nemico e chi è il nemico adesso. Anche questo è abbastanza interessante, perché guardando guardando le bacheche di Facebook della gente, sembrerebbe che il nemico in realtà sia tra noi, soprattutto se appartiene ad una minoranza, che può essere una minoranza etnica o una minoranza diciamo di appartenenza sessuale. La tristezza della nostra Italia, bisogna combatterla anche col sorriso, per cui insomma vi salutiamo. Questo era Coxo Spaziale, abbiamo fatto una puntata un po' veloce e un po' poetica, e ringraziamo i nostri due tra virgolette ospiti, che sono stati Lorenzo Balbi, il direttore del Mambo, e Carlo Criscitelli, l'autore di 70 Revisited, guida sballata verbosa per l'anziano rincattivito di questi anni 1900-2000. E dunque concludiamo la nostra puntata in questi anni 1900-2000 salutandovi tutti. Vi diamo appuntamento a venerdì prossimo, come al solito, su Radio Città Fujiko, come al solito dalle 20 alle 21. Questi erano, no, Fedra Boscaro non c'era, ma questo ero solo io, Stefano W. Pasquini. Questo era Coxo Spaziale. Buon weekend, mi raccomando, fate i bravi, non demolite auto e cose del genere. Ciao. È una storia di ragazze demenziali che volevano cambiato l'universo. L'universo che opprimeva le ragazze demenziali. Poi quel giorno l'astronave dei marziani, proveniente dagli spazi siderali, con il tubo che ti aspira nel suo interno, e nessuno che ci crede.